Secondo il Los Angeles Times e Robert Scheer, la Casa Bianca starebbe ostacolando la pubblicazione di un rapporto CIA sull'11 settembre. L'amministrazione Bush vorrebbe posticipare la pubblicazione a dopo le elezioni, e questo malgrado il fatto che il rapporto sia disponibile dal giugno di quest'anno. Nel rapporto sarebbero contenuti nomi e cognomi e responsabilità di personaggi di alto grado dell'amministrazione in carica. Una fonte segreta dell'intelligence, dopo aver letto il rapporto, avrebbe detto a Scheer che qualora fosse stato pubblicato l'imbarazzo per la Casa Bianca sarebbe enorme, poiché dimostrerebbe come la Casa Bianca si sia totalmente disinteressata del problema del terrorismo prima dell'11 settembre. Secondo la stessa fonte, il rapporto conterrebbe un esaustivo resoconto dei 17 mesi di indagini condotte da un gruppo di 11 persone della CIA, sotto la direzione di Tenet, e sarebbe stato poi bloccato alle dimissioni di Tenet dal neonominato Porter Goss, l'uomo di Bush alla CIA. La fonte anonima avrebbe soprattutto insistito sul fatto che il rapporto sarebbe molto più preciso di quello redatto dalla commissione di indagine parlamentare, diretta dallo stesso Goss, perché rivelerebbe quali responsabilità individuali sarebbero rimaste disattese nella catena di errori che consentì gli attentati. Bush si è ferocemente opposto alla creazione della commissione parlamentare di indagine. Ricordiamo in particolar modo la fermezza del vicepresidente Cheney, che si lasciò convincere solo dal fatto che poi sarebbe stato Porter Goss a presiederla. Ricordiamo poi anche come proprio Porter Goss sia stato nominato ai primi di agosto in tutta fretta a prendere il posto di George Tenet, malgrado questo fosse vacante da diverso tempo e soprattutto malgrado il fatto che fino alla conferma dell'attuale amministrazione Bush alle elezioni di novembre, il nuovo nominato avrebbe avuto poco margine di manovra, visto che essendo dichiaratamente filo repubblicano verrebbe con ogni probabilità sostituito da Kerry se vincesse le elezioni. Questa notizia mette in una luce del tutto diversa le dimissioni di Tenet per motivi personali. Dimissioni avvenute proprio in giugno, quando i contenuti del rapporto sono stati resi noti, se non altro alla Casa Bianca. L'imposizione di Porter Goss, l'ex presidente della commissione di indagine parlamentari sull'11 settembre, malgrado le resistenze feroci dei democratici, alla direzione della CIA, potrebbe spiegarsi proprio con l'imbarazzo per questo rapporto segreto. La nomina alla direzione della CIA è infatti di solito una scelta bipartisan, su cui si chiede l'approvazione dell'opposizione. Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.